America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. We had a massive landslide victory, as you know, in the Electoral College. Bene, continuiamo con la carrellata degli eventi importanti, significativi del 2016 e vi ho fatto appena sentire questa dichiarazione in cui Donald Trump continua a negare che possano esserci davvero dei collegamenti fra lo spionaggio russo e le attività di hackeraggio e penetrazione dei computer del Partito Democratico che hanno portato alla luce delle informazioni molto imbarazzanti su Hillary Clinton, su John Podesta, sul presidente del partito, comunicazioni che rivelano un modus operandi non esattamente trasparente. Una delle ipotesi emersa nelle ultime settimane è che questa operazione serviva a compromettere le possibilità di Hillary Clinton di vincere la Casa Bianca. Ecco, su questo Donald Trump naturalmente interviene a gamba tesa, dice: io ho vinto, punto e basta. Devo dire di essere d'accordo con lui, non so se davvero queste interferenze hanno spostato drammaticamente il voto degli americani a favore di Trump e contro Hillary. Resta il fatto che la documentazione che noi abbiamo su queste attività di spionaggio e sui collegamenti con la Russia sembrano essere schiaccianti. Ecco, il New York Times ha fatto un articolo molto interessante qualche giorno fa in cui viene citato un giornalista di Vice che per primo era riuscito a trovare un collegamento fra uno di questi hacker e la Russia. E il giornalista, guarda caso, è italiano, si chiama Lorenzo Franceschi Bicchierai, è venuto in America a studiare, si è laureato a Barcellona, ha vissuto a Milano, insomma un profilo di quelli che piacciono a noi, anche un po' internazionale, una storia che poi faremo di solo andata. L'ho con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Mario. Eccoci Lorenzo. Beh, intanto complimenti, perché essere citati dal New York Times come fonte attendibile che ha aperto una breccia nella cortina che protegge le attività spionistiche russe non è cosa da poco. Ti ha dato emozione questa cosa? Sì, beh, grazie per le parole, diciamo. Sì, è stata abbastanza una sorpresa e un piacere essere citati, soprattutto perché l'articolo è molto ben fatto e hanno fatto un ottimo lavoro a spiegare esattamente cosa è successo e quali sono tutti i segnali che indicano che probabilmente la Russia è dietro tutta questa operazione. Ecco, quindi tu confermi, sei convinto che tutte le piste più o meno portano alla Russia in qualche modo? Perché Trump lo nega, per esempio, non ha alcuna base, mi sembra, no? Sì, Trump ancora lo nega, Trump lo negò famosamente anche durante uno dei dibattiti, insomma Trump l'ha sempre negato. Purtroppo nel mondo dell'hackeraggio e dello spionaggio cibernetico, diciamo, è sempre molto difficile avere la certezza di chi è stato a fare una certa operazione, insomma chi c'è dietro la tastiera, no? Però in questo caso, secondo quello che ho trovato io stesso e secondo gli indizi che hanno trovato moltissimi altri ricercatori, esperti di sicurezza, ci sono molti indizi che portano al Cremlino. Ecco, arriviamo proprio al punto: come tu sei riuscito a individuare questo collegamento col Cremlino? Allora, gli hacker che sono stati poi identificati sono Cozy Bear, Fancy Bear, che fanno parte, diciamo, di un'operazione di hackeraggio che viene anche chiamata il Duca, se non sbaglio, no? The Dukes. Sì, ci sono vari nomi, però praticamente questi sono gruppi, diciamo, di hacker che, secondo esperti di sicurezza e molteplici compagnie di sicurezza, hanno un certo collegamento con la Russia. Ecco, e tu sei arrivato però a identificare un altro hacker che invece ha un nome così molto evocativo, Guccifer 2. Diciamo che Guccifer 2 è una storia, faccio rapidamente la storia. Esisteva un hacker che si chiamava Guccifer, che adorava le Gucci, non è che si chiama Guccifer per caso, aveva questo fascino per il marchio Gucci, e si chiamava così rumeno ed era riuscito a penetrare la rete protettiva addirittura del presidente Bush figlio. Aveva ottenuto delle informazioni dal computer di una delle sue assistenti e aveva pubblicato delle foto che poi sono andate dappertutto nel mondo, dei dipinti, perché poi abbiamo scoperto che George W. Bush amava l'arte. Improvvisamente, dunque, questo signore viene scoperto, poi è stato anche recentemente condannato, e improvvisamente riappare Guccifer 2, e questo Guccifer 2 riesce anche lui a penetrare i computer di istituzioni americane nel contesto delle elezioni. Ecco, tu identifichi questo Guccifer 2 e segui la pista. Raccontaci che cosa hai fatto e che cosa è successo e qual era il tuo sospetto. Praticamente, per farla breve, quando è uscita la notizia che il Partito Democratico era stato hackerato, il Partito Democratico stesso e una compagnia di sicurezza chiamata CrowdStrike hanno subito accusato la Russia, dicendo che c'erano stati due gruppi di hacker all'interno del network e che non c'era alcun dubbio che era la Russia. Poche ore dopo, e appunto, questo tale Guccifer 2 è uscito invece su internet dicendo: ma che Russia, sono stato io, non c'entra niente la Russia, vi dimostrerò che sono io. E per confermare che era davvero lui, ha pubblicato un sacco di documenti che venivano appunto dal Partito Democratico. E a quel punto io stavo seguendo tutta la storia, mi sono chiesto: beh, proviamo a vedere se riusciamo a parlare con questo Guccifer 2 e riusciamo a capire chi è, perché l'ha fatto, se è vero che non è russo, eccetera. Quindi gli ho mandato un messaggio su Twitter, mi ha risposto quasi subito. Quindi a un certo punto gli ho chiesto di dove era e mi ha detto che assolutamente non era russo e mi ha detto di essere rumeno, proprio come il Guccifer originale. Quindi a quel punto mi è venuta l'idea di parlargli in rumeno. Io non parlo rumeno, però ho usato Google Translate per fargli qualche domanda in rumeno. Lui mi ha risposto in quello che sembrava rumeno, almeno ai miei occhi ignoranti, ma a quel punto ero già abbastanza sospettoso di questo personaggio. Quindi ho mandato questi messaggi a un paio di persone che conosco, che parlano in rumeno, e queste persone con cui ho parlato mi hanno subito detto: guarda, questo non è il rumeno vero e proprio, nel senso che non è il rumeno di una lingua madre. A questo punto aspetteremo la data del 20 gennaio, prima del 20 gennaio, per vedere quale sarà il contrattacco degli Stati Uniti. Ecco, in tutto questo però c'è una cosa che mi ha molto colpito, questa percezione di ingenuità americana. Cioè, noi abbiamo saputo che in realtà l'FBI, un agente dell'FBI, chiama già nel settembre del 2015 i quartieri generali del Partito Democratico e li avverte: cioè, guardate che c'è dell'attività di spionaggio, i vostri computer sono hackerati. E dunque l'America parla ma non agisce, è vero? Per ora è vero. L'unica cosa che ha fatto il governo americano è dichiarare pubblicamente che tutte queste operazioni erano state fatte dalla Russia, ma per ora, almeno pubblicamente, non c'è stata nessuna vendetta, diciamo. Ecco, c'è anche un passaggio qualitativo, nel senso che io sono sicuro, come immagino sia sicuro te, che gli americani, se possono, fanno la stessa cosa. Cercano in ogni momento di hackerare server russi o cinesi dove possono trovare informazioni preziose. La differenza è che poi queste informazioni se le tengono, non le danno al pubblico. Ecco, c'è stato, secondo te, un passaggio qualitativo, se è vero che dopo aver fatto le operazioni di hackeraggio poi queste notizie sono state distribuite al pubblico? Sì, certamente. Insomma, che i governi si rubino i segreti l'uni agli altri, quello, diciamo, sicuramente succede, probabilmente succede più di quello che ci immaginiamo. Però che poi vengano fuori in questo modo pubblico e per influenzare forse le elezioni o per mettere gente in imbarazzo, quello sicuramente non è successo. Ecco, tra l'altro questa situazione di tensione ha già avuto ripercussioni in Congresso, per cui esponenti, leader del Partito Repubblicano, John McCain per esempio, lo stesso Mitch McConnell, il presidente della Camera Paul Ryan, hanno trovato un accordo bipartisan con i democratici per portare avanti un'inchiesta, perché dicono la Russia è un nemico e qui non ci possono essere spaccature politiche, dobbiamo avere un fronte unito. Ecco, su questo, come dicevamo prima, Trump reagisce per ora in modo un po' scomposto, dice: ma no, non è vero. Ecco, come andrà a finire secondo te? Trump dovrà in qualche modo arrendersi all'evidenza? È impossibile sapere come andrà a finire. Però sicuramente gli Stati Uniti dovranno in qualche modo rispondere. Se veramente sono così convinti che la Russia era dietro tutto questo, probabilmente qualcosa dovranno fare. Ecco, la data dovrebbe essere questa data del 20 gennaio. Cosa pensi che possano fare? Che rivelazioni potrebbero dare? A questo punto l'unica cosa che possono fare è, diciamo, una vendetta privata e pubblicare informazioni a proposito della Russia, rubate all'interno di network russi, diciamo. Beh, devo dire che questo collegamento diretto con Putin, più ci penso, più potrebbe non essere impossibile, perché l'operazione, devo dire, è geniale. Sono da ammirare questi signori, perché non solo riescono a penetrare i computer del Partito Democratico, non solo sbaragliano le attività di contro hackeraggio, ma poi riescono ad usare gli stessi mezzi che dovrebbero garantire la trasparenza delle elezioni americane, cioè i media, i giornali, le televisioni, per disseminare queste informazioni che hanno raccolto. Ecco, tu ti sei mai sentito usato dai russi quando scrivevi di queste rivelazioni delle email del Partito Democratico? No, io personalmente non mi sono sentito usato, perché alla fine, se ci sono dei documenti importanti che hanno interesse pubblico, hai il dovere del giornalista di parlarne, di scriverle e di riportarli. Detto questo, riguardo al futuro, quando ci saranno altre grandi filtrazioni di questo genere, ci dovremo chiedere chi veramente c'è dietro a queste filtrazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lorenzo, sei sempre con noi, microfoni di America 24. Abbiamo parlato di spionaggio, di retroscena, di hackeraggio. Cosa ti viene in mente? Cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori in questa atmosfera, come dire, di chiusura di un 2016 e di attesa per il 2017? Beh, visto questa storia e visto il fatto che c'è molta tensione adesso tra gli Stati Uniti e la Russia, e probabilmente ce ne sarà ancora di più, la canzone che viene in mente è quella di Prince, Ronnie Talk to Russia. Ronnie Talk to Russia. Beh, potremmo dire Barack Trump, please talk to Russia. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!